Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo il nostro sito radio24.it, dal quale scaricare tutte le puntate di ogni trasmissione, non solo della mia. Potete farlo in qualunque momento del giorno, della notte, via podcast, riascoltarle con calma, collezionarle, potete scambiarle come con le figurine Panini, insomma potete fare della nostra radio l'uso migliore che volete. Nei nostri profili troverete anche i blog, per chi lo ha, io lo ho, si chiama Guardi o Ladi, lo sapete, parlo sempre di legalità e criminalità organizzata. Mi faranno piacere i vostri commenti. L'ultima informazione relativa alla nostra mail: un abuso al giorno @radio24.it. Allora, oggi parliamo di una cosa, secondo me, che non fa onore ai cittadini italiani, segnatamente non fa onore ai cittadini milanesi, ai cittadini lombardi. Allora, dovete sapere, cari radioascoltatori di tutta Italia, lo dico in particolar modo ai lombardi che, come me, che non sono lombardo ma qui ci vivo, dovremmo vergognarci per quello che è successo. Alcune settimane fa, vale a dire il 7 febbraio del 2010, una associazione che si chiama SOS Racket e Usura, presieduta da Frediano Manzi, un uomo tutto d'un pezzo che ha fatto della denuncia sociale e civile il proprio cavallo di battaglia per anni, si è sciolta, possiamo dire si è autosciolta. Perché si è sciolta? Perché Frediano Manzi ha deciso di scioglierla? Perché A, non ne poteva più dei continui attacchi e attentati che in questi anni ha subito. Per 3 anni quest'uomo, tra le altre cose, in 13 anni ininterrotte di denuncia, ha vissuto con la scorta. B, vedeva che i cittadini sì lo seguivano, ma C, il comune di Milano lo seguiva assolutamente, diciamo così, soltanto per convenienza, quasi per pietà. E allora Frediano Manzi, che ha fatto e condotto delle battaglie straordinarie, come ad esempio, ricordiamoci, la denuncia del racket negli alloggi popolari di Milano, ha fatto arrestare chi gestiva questo traffico illecito, e come queste storie e tantissime altre, insomma non ce l'ha fatta più e si è tirato indietro. Noi abbiamo già avuto il nostro ospite. E ricorderete che il giorno dopo il vice sindaco di Milano, decorato, ci chiamò di corsa: perché non mi avete dato la parola? Io volevo dire che Frediano Manzi, per quello che ha detto, ha sbagliato in questo e questo e quest'altro. Benissimo, Decorato, venga pure a parlarci oggi. Decorato al nuovo dibattito con Frediano Manzi, che è il nostro ospite. Buongiorno Manzi. Buongiorno a voi. E sui motivi per i quali ha sciolto la sua associazione ci ha risposto questa cosa. Gentile Elisabetta Fusconi, facendo seguito alla sua richiesta di un'intervista registrata da mandare in onda durante la trasmissione Un abuso al giorno, mi spiace comunicarle che nei giorni e negli orari da lei proposti nella mail sono purtroppo impegnato a Roma per i lavori e le votazioni alla Camera e sono pertanto impossibilitato all'utilizzo del telefono per conversazioni più o meno lunghe. L'occasione mi è gradita per porgerle i più cordiali saluti. Il vice sindaco Riccardo Decorato. Allora, se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere, o il contrario, mettete voi come preferite, perché giorni ed orari non abbiamo dato la disponibilità più ampia, si può registrare quando si vuole, impossibilitato all'uso del telefono, delle due l'una, o ha le mani fasciate Decorato, oppure forse è una colossale balla. Invito Decorato a venire in trasmissione a parlare e a interloquire con me, con i cittadini milanesi e con Frediano Manzi. Ce ne fossero di persone come lui che hanno il coraggio di denunciare. Manzi è tornato sui suoi passi e ha deciso veramente di sciogliere la sua associazione? Guardi, innanzitutto volevo dire questo, insomma, noi l'associazione adesso la teniamo congelata, appunto, per capire veramente se è stato recepito il messaggio che noi volevamo mandare a questa città. Non era focalizzato sulla sede, l'ho spiegato in più occasioni, ma era un segnale di intelligenza che avrebbe dovuto cogliere questa amministrazione nel supportarci. A noi non mancavano i 400 euro al mese, tra virgolette, per affittarci una sede. L'associazione nostra ce la siamo sempre autofinanziata. Volevamo però che l'amministrazione recepisse il nostro messaggio. Sì, e qui non ho nemmeno come dire, chiamato in causa il motivo che sarebbe stato scatenante, vale a dire il fatto che il Comune di Milano non vi avrebbe messo a disposizione una sede nella quale, come dire, stare e accogliere le denunce, perché appunto è un mezzo, come dire, soltanto di interlocuzione, ma la realtà è che o il Comune vi sostiene o il Comune non vi sostiene, o le istituzioni sono dalla vostra parte o le istituzioni stanno contro. Non mi pare che ci sia una via di mezzo. Ma Ma esattamente così. Noi abbiamo avuto, da quando è iniziata soprattutto la vicenda racket delle case popolari, uno scontro fortissimo. Hanno cercato politicamente di cavalcarci tutti, questo non, è una realtà che si sono fatti le passeggiate elettorali con me nei quartieri, mentre io venivo insultato e minacciato ed ero costretto a entrare nei quartieri blindato dalla polizia, perché altrimenti avevo le aggressioni. Noi abbiamo messo in imbarazzo questa amministrazione con questa vicenda, questa realtà non è stato gradito, perché si continuava a voler far passare di Milano un'immagine che era la moda, l'Expo e la Milano da bere, quando invece c'erano anche altri quartieri degradati in mano alla criminalità organizzata. Allora noi abbiamo fatto due proposte a un certo punto: la creazione di una commissione inchiesta affinché valuti le responsabilità politiche di chi ha ridotto i quartieri in questa maniera e chi ha omesso di trasmettere gli atti che poi noi abbiamo in qualche maniera pubblicato, una parte sul nostro sito dove veniva chiaramente dimostrato che il comune era in conoscenza, addirittura è contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, dove dice che il comune di Milano ha una responsabilità oggettiva su tutta la vicenda, quanto perché non ha mai trasmesso. Ecco, a proposito di sito, ricordiamo, lo ricordo io, si chiama sos-centrale-racket-centrale-usura.org, ripeto, sos-racket-usura.org con i due trattini tra la parola sos-racket e la parola racket-usura. Voi non vi siete stancati di denunciare, mi pare, no Manzi? No, assolutamente no. Abbiamo pubblicato proprio poche ore fa sul nostro sito un'inchiesta veramente squallida da un lato ma clamorosa dall'altro, ossia abbiamo denunciato il racket nell'antiracket. Esatto. Abbiamo messo alla berlina in sostanza con una denuncia pubblica fatta dalla nostra associazione e dalle vittime che hanno denunciato di attenzioni sessuali che dovevano subire per accedere al fondo antiracket. Allora, noi ovviamente non abbiamo la controparte di questa denuncia, siamo ovviamente interessati ad andare a fondo su questa storia. Quindi diciamo così che chiunque vuole può andare a farsi una propria lettura su sosracketusura.org, poi basta digitare in un qualunque motore di ricerca e l'associazione e il nome di Frediano Manzio esce fuori, però quest'ultima denuncia di cui non abbiamo la controparte, quindi per questioni di dialettica e di correttezza deontologica professionale non possiamo approfondirla, ma è una denuncia ben dettagliata, con tanto di filmati, insomma una cosa che sicuramente farà parlare, ma chiunque può andarla a leggere. Manzi, lei diceva, noi abbiamo messo in imbarazzo il comune. Il compito mio di un giornalista non è mettere in imbarazzo un comune, un ente, un'istituzione, ma mettere in imbarazzo la buona o la cattiva politica, mettere in imbarazzo chi sbaglia, non guardare in faccia a nessuno, questo deve essere il compito di un giornalista. Allora, a suo giudizio però Manzi, questa Milano da bere, questa Milano Expo 2015 che non disconosce la mafia, che non appoggia le associazioni come la vostra, è, come dire, è limitato a Milano oppure in realtà ormai nel paese non c'è più un sentore che dovrebbe essere un sentore comune, vale a dire di quanto si sta arrivando ad uno scontro tra legalità e illegalità? Infatti è proprio questo il punto, perché quello che succede a Milano, che è stato un campanello d'allarme molto forte, è diffuso in tanti altri posti, ossia c'è poca attenzione verso chi denuncia e si espone in prima persona. Non parlo solo della mia associazione, ci sono 140 associazioni antiracket, certo, in tutta Italia, che certo, hanno un sacco di problemi uguali ai miei, dove non sono sostenuti, dove anzi vengono messi all'angolo, dove vengono, voglio dire, non viene amplificata la loro voce, che poi sarebbe la voce dei cittadini che si rivolgono a queste persone qui, e c'è il tentativo forte di tenere bassa la guardia su questo fenomeno, cioè sul dilagare in pratica della criminalità organizzata. Non dimentichiamo che in Regione Lombardia abbiamo la presenza massiccia delle organizzazioni criminali che sono capeggiate dall''ndrangheta, voglio dire, assolutamente, dove è, sta diventando veramente un problema. Ribadisco, le infelici affermazioni del prefetto Gianvalerio Lombardi hanno dato un segnale forte, a cui noi abbiamo ricordato che Gaetano Fidanzati è stato arrestato proprio in centro, nella Milano da bere, in via Marghera. Allora Manzi, io la ringrazio per il suo intervento, sono sicuro che non le sarà sfuggito che il mio ultimo articolo scritto sul blog è proprio un'esclusiva, o in esclusiva, il documento del prefetto Lombardi sulla mafia a Milano, quindi chiunque vorrà potrà andarsi a leggere il mio blog Guardie o Ladri, in cui racconto anche l'esperienza in articoli a questo collegato di Frediano Manzi. Purtroppo di queste vicende si vuole parlare pochissimo. Noi invece siamo qui per denunciare gli abusi. Ringrazio Frediano Manzi, sosracketusura.org, per le sue battaglie. Grazie in regia a Valeria Bernardi, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.